pape, pa chia pape, pa chia pape. Se ne fuiu de gheră n de mare. Oh yeah. Goppovavo detto senza fobiet. Johnny a mai che va passava squet. Ci siamo portato l'ovio casa dil. Ma mangia avanti sta città. Uma chiapada pra escala, sabe putovine, moço, senta mal. Sa manhada pastira, se bufada e cabrete. E mostra a rabudana do tovavo reto. Oh oh, que tamar. Oh oh, que tamar. Oh oh, que tamar. Buongiorno a tutte, tutti e tutto. Siamo giunti e giunte alla seconda puntata di LSDC, le scappate di casa. Siamo anche alla Pasquetta del 2020 di pandemia globale, anno bisestile. Non piove, diciamocelo purtroppo, e soffriamo da buone tamarre, come ci ha ricordato anche l'intro di oggi, che insomma quest'anno non potremo fittare la barchetta da Pacioccone, non potremo andare alla Gaiola a Mare Chiaro, non potremo perdere ore e ore di traffico sul litorale Domizio, prendere un traghetto per le isole, raggiungere amici alle pasquette varie in giro per la Campania, salire sul Vesuvio e insomma stare insieme alle tanto amate e odiate compagnie di tutti i giorni oppure di tutte le pasquette. Bene, per quanto, come dire, per partire con la nostra puntata, oggi lo facciamo con le interviste raccolte nella prima sezione dalla nostra scappata di casa speciale, che insomma aiuta tantissime donne a raggiungere sogni di libertà e libertà reale. E la prima voce che ascolteremo è il nostro inno di oggi, un grandissimo vaffanculo in fuga da un uomo violento verso appunto la libertà. Ci sarà dopo la sezione di Io resto a casa, ma questa sezione sarà un po' più lunga perché abbiamo tanto da dire e soprattutto vorremmo farci ascoltare e sentire. C'è Monica, una compagna lavoratrice precaria che al momento non sta lavorando, ma non resta a casa e si dedica alla solidarietà e al mutualismo con le BAM, che sono le brigate di appoggio mutuo nella zona nord di Napoli, zona Scampia, e ci racconta come insomma cosa significa essere vicino a tutte le persone senza tutele e senza tutele sociali, e ci racconta quindi quali sono le condizioni e com'è la situazione. Ascoltiamo dopo Rumiana, una donna rom, che ci spiega chiaramente che per molte persone questa emergenza significa purtroppo decidere come morire, se di Covid o di fame, e ci spiega appunto quali sono le condizioni del campo in cui vive, l'assenza delle istituzioni, che non c'è stata nessuna sanificazione, e soprattutto il trattamento che ha ricevuto da parte dell'ASL quando è andata a chiedere se era possibile avere delle mascherine. C'è poi la voce di Nilanti, una lavoratrice domestica dello Sri Lanka che vive qui a Napoli, che resta a casa perché con un contratto a tempo indeterminato è stata licenziata con l'inganno dalla sua datrice di lavoro, perché aveva paura insomma che potesse portare il Covid a casa sua. E poi c'è Lucia, che ci racconta che restare a casa significa per alcune persone vedersi non garantite le visite oncologiche, e soprattutto ci riporta il problema reale che la salute non è assolutamente un diritto per tutte e tutti. Poi c'è Sissi, che con rabbia e determinazione ci racconta la fatica, la fragilità dello stare a casa, ma soprattutto il rifiuto di diventare delatrice o controllore della didattica a distanza dei figli, e soprattutto che se ci immaginiamo il dopo non potrà mai essere il ritorno alla normalità. Bene, abbiamo unito queste voci in un unico grido per spingerci, come direbbe Belux, a continuare il nostro impegno per costruire solidarietà, solidarietà politica femminista, per continuare a mettere in atto il pensiero e la pratica antisessista, consapevoli sempre che la sorellanza è effettivamente possibile e che insomma la sorellanza è ancora potente. E ci siamo, andiamo adesso. Vai mo. Buongiorno. Volevo avvisarvi che purtroppo in questa quarantena quasi noi per donne vittime di violenza il caso peggiora, ma peggiora in tutti i modi. Io purtroppo vi voglio raccontare un poco in breve la mia storia. Dopo 40 anni di matrimonio purtroppo sono stata costretta a lasciare questo individuo. Ho fatto varie denunce, ho vinto una due cause, sia penale che civile, e purtroppo sì. Io sono protetta dal centro antiviolenza e dopo 2 anni quasi di terapia riuscivo a vedere uno spiraglio di luce. Purtroppo, con sta quarantena, quello spiraglio di luce se n'è andato a farsi fottere. Sapete perché? Perché lui ha iniziato di nuovo. Inizia mattina, mezzogiorno e sera. Atti persecutori. Quindi io sono perseguitata in casa mia. Non posso affacciarmi, non vivo più, non si vive più, perché purtroppo lui di fronte riesce a guardarmi perfino in casa e io la mia privacy non c'è più. Quindi oggi vi dico, fate molto attenzione perché questi individui possono pa passare di tutto, ma la sua preda non la mollano perché noi siamo di proprietà loro. Quindi con il vittimismo, col farsi credere dalle altre persone che tu sei il male e lui è il bene, mi ha distrutto una vita intera. Oggi vi dico che in questo preciso istante io mi sono dovuta allontanare da casa. Sto con la mia operatrice, ma mi sta portando in un luogo segreto perché purtroppo la mia psichica non va più. Oggi vi dico che non ce la faccio più. Vado a denunciare. Una volta, 2 volte, 3 volte. Ma sapete che cos'è? Dovete dare prova che lui sta là. Ma lui è una preda molto. Lui è quello che è. Riesce a captare e riesce a sfuggire. E quindi, se non c'è prova che lui sta lì, che io porto davanti ai carabinieri, davanti al giudice, la mia parola contro la sua. Mi sta distruggendo. Io oggi purtroppo vi dico, ragazze, ribellatevi. Meglio prima che dopo, perché questi qua psicologicamente, no, a volte ci sono violenze, quelle là percosse, ma quella là psicologica vi dico che è una cosa bruttissima. Ne sono 5 anni e ancora non devo uscire. Ancora non riesco a vivere la mia vita. La mia vita ormai è finita. Per vivere ancora, per respirare ancora, io mi sono dovuta allontanare e oggi in questo momento, sto in un luogo protetto. Vi dico solo ragazze, svegliatevi e incominciate a vivere. Si vive una sola volta nella vita. Il resto è a tutti questi esseri indegni un vaffanculo. Vi ringrazio, buongiorno e buona giornata a tutti voi. Un bacione forte forte. And this tune, my man's scream. Bless the ladies. There's the mother of the future. Give them to the creator and sing. Bless the ladies. Make what I do when I listen this tune. You know the messages. Bless the ladies. Me I represent the women all over the planet. So me I chant, chant. Bless the ladies. Ciao. Me ne dette sulle femmine. Ci la create. L'uomo non va danza per sempre. Vanno ringraziate. Questa è la regola. E poi ci lo sape. Cazzo un cavenano. Le femmine vanno rispettate. Invece quante se ne vedono da me alle strade, minacciate, maltrattate, cadate, deportate dall'uva i loro pece venono accecate da la promessa della patria che ludere le pace. When I listen this to my mom's scream, bless the ladies, there's the mother of the future, give up to the creator, bless the ladies, make what I do when I listen this to you know the messages, bless the ladies, I represent the women of the plan, so me I chant, chant, bless the ladies. Io resto a casa, ma se non ho la possibilità di andare a fare la spesa, perché in questo momento non sto lavorando, e se anche prima, quando lavoravo a nero, la mia situazione non era tanto positiva, insomma, restare a casa diventa davvero molto difficile. E quindi io personalmente, volontaria di BAM, Brigate di Appoggio Mutuo Napoli, non resto a casa, ma mi dedico al mutuo appoggio per il mio quartiere e per le persone che in questo momento sono costrette a restare a casa senza tutele sociali. E per questo, insieme ai compagni e le compagne, insieme alla rete territoriale di Scampia, abbiamo deciso di attivarci per portare la spesa a tutte le persone, ovviamente nei limiti delle nostre possibilità, e anche grazie a questa raccolta fondi che abbiamo attivato su buonacausa.org, abbiamo deciso di attivarci per dare un minimo di supporto a queste famiglie e a queste persone, pur sapendo che non sarà certamente la nostra spesa e neanche i buoni passo del comune e i provvedimenti del governo, che chiaramente escludono una buona fascia di persone, insomma, sappiamo che non sarà tutto questo a risolvere il problema di queste famiglie. Ok, ti volevo chiedere, ma chi è che si rivolge a BAM per avere la spesa? Allora, sono sicuramente molte famiglie del quartiere, prevalentemente di Scampia, Rom e non Rom, ovviamente donne che vivono sole con i bambini e che quindi hanno chiaramente i loro compagni, i loro mariti in galera, e quindi chiaramente hanno bisogno di un supporto. Se già prima erano sole, adesso diciamo lo sono ancora di più, e le famiglie Rom. Vi è capitato di ricevere critiche o aggressioni proprio perché aiutate i Rom? Allora, al momento non ancora, e speriamo che questo non accada, anche perché questa crisi in qualche modo ci fa sentire vicine anche a chi insomma credevamo fosse molto distante da noi. Ti volevo chiedere un'altra cosa: i Rom sono destinatari e stanno beneficiando di qualche forma di aiuto, di supporto da parte delle istituzioni, o li state aiutando solo voi? Sono completamente invisibili oltre BAM e oltre compagni? Allora, quello che stiamo facendo con le famiglie Rom e con tutte le famiglie è anche accompagnarle alla pratica per i buoni pasto, e quindi li stiamo supportando in tutta questa operazione informatica di richiesta al comune. Quello che però volevo aggiungere è che questa forte emarginazione che vivono le famiglie Rom, chiaramente, ecco, non si risolverà certamente con i buoni pasto, ed è un'emarginazione che precede ovviamente questa emergenza. Basti pensare ad esempio al campo Rom legale di Secondigliano, tra l'altro che pure stiamo supportando con la nostra spesa, parliamo di oltre 100 persone, campo completamente abbandonato a se stesso, dove il comune non ritira manco la spazzatura, dove davvero non arriva alcun aiuto, per cui diciamo da sempre questa situazione di forte marginalità dei Rom è dovuta, perché è voluta anche dalle istituzioni, perché chiaramente i Rom sono e saranno sempre soltanto un problema e non saranno purtroppo mai considerati dai palazzi del potere come persone. Sì, infatti quello mi pare che si chiamava proprio villaggio attrezzato comunale, lo costruì proprio il comune, costruendolo diciamo già dall'inizio come un ghetto e un luogo di disperazione, perché misero le persone, le deportarono dall'altro campo e le misero senza tenere conto dei legami di famiglia, delle differenze tra i gruppi, anche dei conflitti tra i gruppi, li schiaffarono tutti quanti là in questo posto scene e schifosi. Io mi ricordo che era molto più accettabile la vita in quello lì, nella baraccopoli, piuttosto che quello del villaggio attrezzato. attrezzato. Poi ci manco da tanto tempo. No, ma è esattamente come dici tu. Inoltre si aggiunge anche il fatto che questo campo è stato costruito sull'asse, sul doppio senso, sulla quella che insomma conosciamo come la strada americana, che è una strada a scorrimento veloce, per cui si trovano queste tantissime famiglie a vivere sulla circonvallazione, totalmente isolate e senza possibilità di, come dire, di un processo di possibile contatto con la città, perché esattamente li hanno proprio schiaffati, che se esci ti travolge una macchina, infatti. E così sono stati messi lì proprio per essere isolati volutamente. Ciao Rumiana, io resto a casa, ma... La mia domanda è, come posso stare a casa se siamo 300 abituati al campo, ci sono tanti bambini, è difficile al campo stare, perché soprattutto noi qua, prima di tutto si muore di fame, perché da come è cominciato il coronavirus, dal 5 marzo, fino a 10 giorni fa non è arrivato al campo, qua non è arrivato nessuno, non è dato nessun mano. È difficile, qua ci sono tanti bambini che morono di fame, non possiamo uscire perché abbiamo paura, se ne fermano i carabinieri gli faranno la multa, se non abbiamo diritto di uscire solo per andare a comprare una cosa, ma se io non ce l'ho un euro, come posso andare a comprare una cosa per i miei figli? Non posso comprare neanche un pane per i miei figli per farli mangiare oggi. È molto difficile stare al campo, perché soprattutto qua ci sono tanti che siamo qua, ci sono anziani, ci sono le donne incinte, ci sono, ma qua non funziona proprio niente al campo. Scusami, non lo so più. Sì, Rumiana, scusami, ti volevo chiedere una cosa, non sono venuti a disinfettare, a sanificare, no? Il comune non è venuto a sanificare, e sappiamo bene che fuori al campo rom i gagé usano andare a buttare la spazzatura, quindi ci sarà come al solito quella tantissima spazzatura che la gente vi viene a buttare vicino al campo anche per sfregio, e non è mai stata fatta una sanificazione da parte del comune. Al campo vivono, oltre appunto come dicevi tu, donne anziane, cioè donne incinte, anziani, tantissimi bambini. Sì, tantissime, sì. Ma non nessuno, perché noi siamo mezzo alla mondizia qua, e se la legge dice lavati le mani spesso, non toccare il bocco e il naso, ma noi siamo mezzo alla mondizia qua, non abbiamo le guanti, dall'inizio non abbiamo neanche le mascherine, non si potevano trovare, no, cioè si trovavano le mascherine però con un costo 3, 4, 8 euro, ma qua i rom che non lavorano, loro prima andavano a chiedere l'elemosina, andavano a vendere i rotoli di carta, uno ne usciva a fare un pezzo di pane, però adesso la cosa è molto grave perché non possiamo uscire. Con due parole semplici, o moriamo dal coronavirus o si muore di fame. Queste sono le cose importanti, perché se nessuno non ci può aiutare a noi e siamo abbandonati, ma è vero questo che sto dicendo, perché io mi sento abbandonata, anzi dico la verità, perché io sto lavorando, sto facendo il progetto, però per il coronavirus sono sospesa, io non percepisco nessun un euro, allora anche io mi vergogno a dire che io sto lavorando e non ce l'ho un euro. E allora le cose diventano, perché se io non so che coronavirus fra 10 giorni finisce, allora io torno alla vita normale, ma se la mia preoccupazione questo durerà per mesi, allora io dico, ma come posso stare a casa? Io posso rimanere a casa, ma quanto posso rimanere a casa? Quanto lo so che ce l'ho da mangiare, non mi manca niente, ho tutto il frigorifero Ma se io vedo che oggi non si mangia a casa mia, domani non si mangia, i miei figli piangono di fame, morono di fame, allora io per forza devo uscire, vado sulla strada, vado a chiedere l'elemosina, vado vicino a un supermercato, chiedo l'elemosina, che mi compro un pezzo di pane, tanti mi mandano a casa. Ma io non posso fare più nulla. Scusami Rubiana, ma tu sei andata, mi dicevi che tu sei andata a cercare aiuto per tutto il campo Rom, sei andata all'ASL a chiedere se ti davano qualche mascherina, qualcosa per cercare di aiutare un po' tutti, no? E come ti, come ti hanno accolta all'ASL? Allora, questo era più o meno a 10-15 marzo, appena è entrato in vigore, diciamo, che si sentiva le mascherine, le guanti, tutte le cose. Allora io ho pensato, se anche io non ce l'ho queste mascherine, che cosa ho pensato? Che potevo andare all'ASL di Secondigliano di Scampia a chiedere le mascherine, non è solo per me, per tutto il campamento, magari una mascherina ciascuno, i bambini, tutti, per essere, perché qua al campo erano tutti i bambini che corrono fuori, erano vicini, uscivano le gente per strada, però senza le mascherine. Allora io sono andata, appena sono andata a quinto piano, ho trovato la dottoressa e ho chiesto: buongiorno dottoressa, io abito al campo Rom, posso avere le mascherine? Ma non mi potete immaginare che io sono stata trattata come un cane. Allora nemmeno non mi ha risposto. Io volevo sapere da chi posso andare. Posso andare dal direttore, chi mi può dare un mano per avere queste mascherine? Lei ha cominciato a urlare, la dottoressa: esci fuori, chi ti ha fatto entrare? No, allora io ho risposto: guarda dottoressa, non è che io sono salita volata per quinto piano, io sono passata, i guardie erano fuori, io sono entrata. Allora subito, che cosa ha fatto? Avanti a me, e muoio, io le chiamo per far vedere come ti avevano fatto entrare. Ho detto: guarda, chiamo le guardie e le vedi che io sono entrata vicino a loro, non è che sono entrata così. Alla fine non mi ha fatto sapere nulla, sono stata trattata malissimo da loro, da parte di loro sono stata malissimo trattata, dal dottore proprio dall'ASL. Perché qua non abbiamo, noi abbiamo un medico di base, sì abbiamo, si trova al primo piano, però adesso è tutto chiuso. Qua a televisione sempre dicono: se uno si sente male, se uno prende le medicine, andate dal vostro medico o chiamate, ma noi in Rom non sappiamo il numero di telefono, non sappiamo il nostro medico come si chiama, perché tutti in Rom giovedì, ad esempio, vanno martedì e giovedì, c'è il dottore di base per gli stranieri che si trova lì, ti fa i documenti e te ne vai. Non è che io sapevo il numero di dove, come si chiama questo dottore, da dove posso contattarlo, non c'ho un numero di telefono. Allora è molto difficile, perché qua al campo ci sono tanti anche malati, e i gente che prendono nelle medicine per il diabete, per pressione. È facile uno dire: vai a comprarsele, ma se loro non c'hanno da mangiare, ma non possono preoccuparsi neanche le cose da farmacia, non possono usare niente. Ciao Nilanti, allora anche tu resti a casa, ma come va? Perché io, perché sto a casa, grande problema, capito? Senza lavoro, come io fai vivere, anche mandare soldi, paesi, mia figlia. Certo, e vuoi raccontare come hai perso il lavoro? Perché tu hai perso il lavoro con un inganno. Sì, signora ha fatto lavoro per me, contratto indeterminante, lungo, non scaduto. Però lei adesso ha fatto bugia per me, pare di contratto chiuso, perché lei scrive una lettera. Io non lo so chi cosa scrivere, però io venire a casa e io leggere altra persona, detto quello chiuso contratto, perché lei ha detto prova, questo giorno, lei non dire prima prova, capito? Lei chiuso il mio contratto, adesso che cosa fare non lo so io. Ieri ha chiamato me altra volta, ha detto vieni portare altra lettera, tu vuoi fare di, come ci dici, di CAF, discoposizioni. E io non va, perché io paura, lei ha fatto prima bugia, adesso io non lo so che cosa scrivere. Io pensare sta casa, che cosa è facendo, non lo so perché lei ha fatto i cosi. Ok, quindi se ho capito bene, tu avevi un contratto a tempo indeterminato, sì. E lei con l'inganno ti ha fatto firmare una carta e dopo tu hai scoperto che hai firmato il tuo licenziamento. Perché guarda, io ho sentito di detto di anche aprile voglio pagare signora, lei ha sentito questo, lei ha fatto di per me quella brutta cosa, capito? Aveva paura di doverti pagare? Ma tutto questo, diciamo, è successo per la quarantena? Sì. Non lo so, adesso io voglio trovare lavoro, anche il mio documento ancora non pronto, costura, permesso di soggiorno. Perché una signora ha fatto prima, io lavoro dicembre, sì, io lavoro un mese, lei ha detto non posso pagare troppo soldi perché 800 euro, anche contributi, così lei ha detto mia amica serve qualcuno, tu vai mia amica a casa. Lei anche non danno di 15 giorni, non pagato niente, ok va bene, lei ha trovato il lavoro, io vado a questo casa lavoro, di marzo, 2 marzo io lavoro, capito? Ah, tu hai cominciato il tuo contratto a tempo indeterminato, l'avevi firmato il 2 marzo? Sì, lavorando dopo 10 giorni questo coronavirus venire problema, grande problema. Lei paura, ha detto io vado di metropolitano, lavoro e così, lei paura, lei fermata lavoro. Con dopo, l'inganno. Dopo lei fatto questo cosa, capito? Mannaggia, va bene, ma speriamo di poter fare, speri, no? Di poter fare qualcosa di adesso contro questa signora. Non lo so, io non voglio così bugie, capito, più lavoro, io cercare lavoro adesso, come questo periodo io non posso trovare lavoro, come vivere, io pagare voi casa. Okay. Fitta, tutto, corrente, tutto. Questo non si ferma. Me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitime, que isso é vitime, que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitime, que isso é vitime, que isso é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, vem cá. Você também pode lutar. Io resto a casa, ma con l'emergenza le visite oncologiche non sono garantite, anzi, sono state spostate a data da destinarsi. Io resto a casa. Ma da anni dopo l'estate nella mia regione diventa difficile prenotare visite mediche perché i budget di spesa nei centri che operano in convenzione finiscono e a pagarne il prezzo sono gli anziani, i pazienti oncologici, gli ammalati cronici, i disoccupati e i più poveri. Io resto a casa, ma nel mio paese e soprattutto al sud le visite sanitarie per la prevenzione di malattie hanno attese di mesi o addirittura anni. Io resto a casa. Ma se devo scegliere tra sanità pubblica o privata, significa che la salute non è un diritto di tutti. Io resto a casa, ma continuano ad appiccare rughi tossici facendoci respirare diossina e inquinando i nostri terreni. Io resto a casa, ma i dati del registro tumori della Campania aumentano in modo esponenziale a causa dell'inquinamento e non dello stile di vita. Io resto a casa, ma per il mio paese l'inquinamento ambientale non è emergenza. Io resto a casa, ma con le mie sorelle costruisco percorsi di lotta per rivendicare quelli che sono i diritti di ogni essere umano. Sì, vabbè, io resto a casa, ma faccio fatica a respirare, faccio fatica a leggere e pure a pensare. Arresti domiciliari, ma io sono responsabile della salute altrui. Sono fragile, ho paura. Ma non voglio essere una poliziotta, non voglio sorvegliare mio figlio se si collega alla didattica a distanza, se fa i compiti. Non voglio puntare il dito su chi si permette di parlare a un metro, a meno un metro di distanza. Sto scoppiando. Ogni volta prendi i guanti, metti la mascherina, togli i guanti, lava le mani, cucina, inventa. E per il resto, niente. Ci affacciamo ai balconi, ascoltiamo il silenzio. Questo silenzio agognato da tanto. Silenzio, silenzio. E poi mi sale mi sale l'odio. Penso a loro, penso a queste merde che ci fanno restare in casa, che sapevano che non hanno fatto nulla, nulla per curarci. E ora noi dobbiamo essere i responsabili. E mancano maronne tampone, ce lo fanno. Manca quella, costa troppo. Eh sì, è perché poi dopo bisogna lavorare da casa, bisogna uscire poco, magari non bisogna scopare tanto perché anche quello sarà molto pericoloso. E poi i baci, no, ma immagina due gay che si baciano per strada, sono doppiamente, triplicamente degli untori. E le sex worker, oh, non ne parliamo proprio, uno schifo, uno schifo. E come sarà la nostra vita dopo? Controllati fino al dentro nostro buco del culo. Non che prima non lo fossimo, per carità, ma ora sarà ancora più dolce questa eccolatura. Ah, fine prima puntata. Bambini andata a nanna, prima di nuotare imparate a restare a galla. Se c'hai una canna falla, appena puoi farlo sballa. Pungi come una pevola, come una farfalla. Seconda parte della puntata, della seconda puntata delle LSDC. Questa parte la introduciamo con un saluto a Salvo Ricciardi, una delle voci fino all'ultimo di Radio Onda Rossa e a lungo detenuto prigioniero politico, e si è battuto fino all'ultimo contro quella che è la brutalità dell'istituzione del carcere. E lo salutiamo con le parole scelte da Andrea e prima con le parole anche a lui dedicate dal Centro Antiviolenza Donna Lisa. Scriviamo solo ora, ora che il respiro si è fatto più lento e più profondo. Sono stati giorni di attesa e di ansia, di respiro corto da quando quel 7 marzo sei inciampato e caduto. Eri con noi quando stavamo attacchinando lo striscione per lo sciopero trasfemminista dell'8 marzo, perché il femminismo era qualcosa con cui ti misuravi e che avevi compreso, a differenza di molti. Una bella persona con la quale parlare e ragionare. Non sempre eravamo d'accordo, ma le tue riflessioni erano sempre stimolanti e quando il nostro confronto non trovava un punto d'incontro, non ti ostinavi né volevi importi, ci dicevi: sarà, vedremo. Vogliamo ricordarti per il tuo sorriso, la tua gentilezza, la tua straordinaria umanità, perché non ci interessano e men che mai ci piacciono gli eroi. Per noi sei stato un caro compagno e soprattutto un amico con il quale passeggiare, manifestare, fare vacanze, festeggiare le nostre compleanni e i nostri compleanni. Ci mancherai, Salvo, tanto, ma anche noi, come te, fino all'ultimo abbiamo una volontà ostinata di cambiare questo schifo di mondo e continueremo sapendo che il tuo sorriso e la tua amabilità ci accompagnerà. Un corale abbraccio ovunque tu sia, e anche noi ci stringiamo in questo corale abbraccio e niente, segue la seconda parte quindi con il saluto ulteriore che abbiamo deciso di dedicargli con le parole di Andrea. Ci sarà la bibliomanzia e chiuderemo con l'astro merda. A Salvo Ricciardi e a tutte le persone detenute in lotta. Per ricordarlo con le sue parole, un estratto da Esclusi dal Consorzio Sociale, parole e azioni delle persone imprigionate. Se vi accingete a leggere questo libro, sappiate che vi conduco in carcere. No, non vi allarmate, non vi ci conduco per gettarvi in una cella buia, fredda e schifosa. E no, non sarete persone detenute a tutti gli effetti, ma nemmeno dei visitatori superficiali. Entrerete nei reparti, nelle celle e nei passeggi, per ascoltare in diretta le parole rinchiuse in quel luogo, per scrutare quei volti sconosciuti o dimenticati, per respirare l'aria inquieta e oscura, per sentire la puzza, ma anche le profonde riflessioni che sgorgano da quei luoghi. Perché vi conduco dentro, in fondo direte. Il carcere si conosce, se ne parla in articoli, libri, convegni, documentari, film, e se ne discute tanto. Il carcere è, oggi, diventato trasparente. Beh, io non la penso così. Il carcere non è trasparente, non si conosce affatto. Se ne conosce un modello inquinato dagli stereotipi, dai pregiudizi, che ne falsano la comprensione, anche in coloro che si informano seriamente e che si rammaricano per le tante vite interrotte, cui vorrebbero placare l'angoscia. Lo sguardo sulla detenzione inganna, perché fa intravedere dietro le sbarre persone disperate, senza prospettiva, gettate via come rifiuti. I bravi cittadini vedono un ammasso informe di persone che si lamentano di un sistema penitenziario che produce sofferenza e chiedono un aiuto. Vedono corpi che urlano la propria innocenza, se non sul piano strettamente giudiziario, almeno su quello della responsabilità. Questo libro vuole spazzare via tutti quegli stereotipi cui la moda attuale ha aggiunto quello di vittima. È elogio del ruolo di spettatore, della passivizzazione dell'esistente che decide di non agire e subisce passivamente l'esistente, chiedendo aiuto ai potenti. Questo testo, al contrario, vuole far vedere che dentro quelle mura ci sono persone come noi, con bisogni e aspettative come le nostre, con pensieri e idee che come le nostre si confrontano e si scontrano, come facciamo noi. Loro si sentono parte della società e lo sono. È fuori che non li si considera come parte sociale. Dentro si discute di politica, la politica della trasformazione sociale. E se ne discute forse più intensamente che fuori. Fuori siamo in preda a una sindrome da fine della storia. Temiamo perfino di immaginare un diverso assetto socio-economico e relazionale. Eh già, esclameranno molte e molti di voi. Ma questa è utopia. Beh, può darsi che lo sia. Ma guarda un po', è la stessa utopia che coltivavano le deputate e i deputati dell'Assemblea Costituente, quando cercarono di capire come si poneva il regime fascista nei confronti del carcere, per ribaltarlo completamente, per collocarsi da un altro punto di vista. Loro avevano lottato contro il fascismo, seppur da progetti sociali diversi, pagando un costo molto alto. E dunque volevano costruire una società diversa. Le costituenti e i costituenti cercarono il punto di vista del fascismo sul carcere e lo trovarono nel regolamento del 31, che è stato in vigore nelle carceri della Repubblica fino al 75. Questo era caratterizzato da una netta impermeabilità tra carcere e società. Il detenuto doveva essere escluso dal consorzio sociale di cui aveva disconosciuto i valori. Una sorta di amputazione del consorzio umano. Lo ricorda un costituzionalista che dice: il carcere, per come è stato pensato storicamente, equivale a uno sradicamento, a un'amputazione, a un occultamento di una parte della società che l'altra, quella per bene, non vuole incontrare né vedere. Un principio che le persone detenute avevano capito circa 50 anni fa, quando si sono organizzate in collettivi e hanno cominciato a lottare e studiare per scoprire l'arcano e convincersene. E quando si sono convinte, hanno intrapreso l'opera di demolizione con la lotta di questo stato di cose per edificarne un altro, insieme agli altri soggetti in movimento, cioè gli operai, i proletari dei quartieri e dei campi e i giovani delle università e delle scuole. E ne hanno prodotte di cose. Queste pagine raccontano ciò che si svolge in un carcere senza nome, ma concreto, reale, un carcere dei nostri giorni. Chi c'è in questo carcere? Un gruppo di detenuti di lungo corso, con molti anni di carcere alle spalle, che si sono formati nelle intemperie del movimento dei detenuti nei decenni 70 e 80. E poi, dopo anni passati nelle carceri speciali, diventate successivamente AS1, AS2 e AS3, cioè la sorveglianza speciale, vengono sclassificati, ossia riportati nel circuito delle carceri normali. Lì incontrano altri detenuti, diversi per provenienza e per età, ma anche per interessi e per idee. E loro, i vecchi, portano il ricordo ancora vivo del ciclo di lotte dei decenni precedenti. E lì si incrociano parole, emozioni e ragionamenti. Quello che ne viene fuori, se vi va, leggetelo. Brunelle rosa, noi non contiamo niente, tempo e pace. Ma sì, chi ci comanda non ci piace. Noi non ci stiamo zitta, che hai t'amma voce. Ciao a tutte, tutti e tutto. Siamo di nuovo qui nella rubrica Bibliomanzia, come prendere un libro, aprirlo a caso e farci suggerire pillole di benessere. Abbiamo in mano in questo momento Ricci Limoni e Caffettiere, un libro dell'associazione Liscia, curato da Cristina Cecchini e Cristina Gasperin, che è un passaparola di piacere. È un libro scritto in seguito ad un laboratorio di gioco nel carcere di Rebibbia con le donne detenute di Rebibbia. In realtà sono piccoli stratagemmi che provengono da una vita ristretta, piccoli stratagemmi di bellezza che ci vengono suggerite da chi vive detenuta. Apro a caso questo libro con un rito, Aoli e Ole, Tolilemblem Blu. Ok. Menù. Questo libro stasera mi suggerisce come preparare un piatto. Il nome del piatto è Gioco. Preparazione e caratteristiche di un piatto gustato insieme. Occorrente: un gruppo di donne, uno spazio, della musica, desiderio di mettersi in gioco e fantasia quanto basta. Prendi gli ingredienti e mescolali con cura. Se ti sembra poco saporito, puoi aggiungere travestimenti, fili di lana, una buona dose di abbraccio e curiosità. Una volta creato l'impasto, mettilo a cuocere per 6 volte. Il tempo necessario è concesso affinché tutti gli ingredienti descritti si armonizzino tra di loro. Quando sarà cotto, spolveralo con una scaglia di sfida, gocce di imprevisto e abbelliscilo a tuo piacimento con degli errori. Buon appetito! Sostanze nutritive. Il risultato è un piatto gustoso, completo e leggero, ricco di sostanze nutritive quali contatto fisico, ascolto, coccole e ricordi e scoperta. E sorellanza, perché io, che non ero mai stata in un ambiente così e non ho mai avuto sorelle, ho trovato qui in cella tante sorelle più piccole con le quali poter dialogare, parlare. Altre sostanze nutritive contenute nel piatto del gioco sono: errore è a sbagliare che nascono le relazioni. E poi ubriachezza ed euforia, perché venendo qui sembra di stare un po' ubriaca. E infine benessere, perché qui, dopo tanto tempo di detenzione comunque, una perde anche un po' la conoscenza del proprio corpo. Anche se qui riusciamo con i nostri metodi a prenderci cura di noi, del nostro corpo in senso fisico e anche a livello interiore. E infine, etichetta dei valori nutrizionali, il potere del gioco. Mangiando questo piatto mi è accaduto di desiderare di tornare a piacermi. Mi sono messa a dieta e l'ho fatto insieme ad altre compagne per darci forza l'un l'altra. Ho scoperto che il limone unito all'olio rafforza le unghie, ma unito al miele lenisce i dolori di stomaco. E ho imparato che con una caffettiera posso fare il caffè per il tiramisù, ma che con due caffettiere e con l'aiuto di una compagna posso addirittura stirarmi i capelli. Buona serata a tutte, tutti e tutto e al prossimo appuntamento della rubrica Bibliomanzia. Ciao! Another flow. Every time I hear a brother call a girl a bitch or a hoe, trying to make a sister feel low, you know all of that got to go. Now everybody knows there's exceptions to this rule. I don't be getting mad when we playing, it's cool. But don't you be calling me out my name. I bring breath to those who disrespect me like a dame. That's why I'm talking. One day I was walking down a block, I had my cut off shorts on right, cause it was crazy hot. I walked past these dudes when they passed me. One of them felt my booty, he was nasty. I turned around red, somebody was catching the rat. Then the little one said, yeah, me bitch. And laughed. Since he was with his boys, he tried to break fly. I punched him dead in his eyes. Said, who you crawling with, bitch? U-N-I-T-Y. Ciao a tutti e benvenuto nel primo oroscopo che governa con il favore delle tenebre. Piatto ricco, mici ficco, bando alle ciance, parola alle stelle. Ariete, che ti devo dire? Sai tutto tu e quel che è grave è che è vero. È difficile trovarti impreparato, eppure quando ti si coglie in fallo, riesci ad arrampicarti con quelle tue zampine arpionate su tutte le più valide motivazioni, anche quando hai torto. Ora che Mercurio è nel tuo segno, tutto lo zodiaco può dormire sogni tranquilli, perché le tue consuete fantasie di sterminio di massa sono per il momento rimandate. Ti becchi però la strommerda di Zaia, che è del tuo segno, Toro. Lockdown planetario come nelle tue più promettenti aspirazioni. Il detto oziare localmente e scomparire globalmente è stato adattato pensando a te. Non solo non vuoi muoverti, ma provi fastidio dal movimento altrui. Tu sei quello che lanciava secchiate d'acqua su Giusso. Sei quello che tirava piscio su Santa Maria la Nuova. Indovinate chi è del Toro? La strommerda per De Luca. Gemelli. Per te sì che è difficile la quarantena. Te dall'andamento stabile come la borsa di Francoforte dopo il discorso della Lagarde. I tuoi titoli sono crollati un attimo dopo aver esclamato raggiante «Sta procedendo tutto come da cronoprogramma». Siamo fortissimi, astromerda per Gigino De Magistris. Cancro. Ti vedo lì emozionarti ad ogni servizio del TG3 da Via Caracciolo. Ti vedo condividere parole di speranza e abbracci virtuali carichi di significato. A te, che hai amato tutte le pubblicità della Barilla, ora senti di esserne protagonista, perché dove c'è pandemia c'è casa, e dove c'è casa c'è amore, e dove c'è amore ci sei tu, e dove ci sei tu, generalmente la gente scompare perché con i tuoi modi sei riuscito a sfrantumarla pure a Gandhi. Sei l'album di figurine di Amici Cucciolotti, proprio come il tuo socio, astromerda Di Maio. Leone. Hai dato prova anche questa volta di essere l'unico a cui corre l'obbligo tra tutti i suoi omologhi dello zodiaco di fare i nomi e i cognomi di chi ti inganna senza guardarti in faccia. Io però temo che andando di questo passo nemmeno tu riuscirai più a guardarti in faccia. Aspettiamo una tua lacrima, di gioia si intende, e delle scuse se ne sei capace. Peppino Conte, uno di voi. Vergine, attenzione, credo che tutti meritino nella vita un amore, un amico e un nemico della Vergine. A te che questa pandemia ha fatto riscoprire i veri valori che purtroppo la tua totale abnegazione al lavoro avevano sacrificato. Mi riferisco al programma col prelavaggio, quello di 5 ore, con passaggio di ammorbidente e senditura a ciclo immediatamente terminato. Sposti i panni dal balcone frontale a quello laterale, nello spazio orario che va dallo zenith a quando il sole raggiunge la distanza zenitale di 96 gradi, perché sì, anche se non vi sono precipitazioni, è previsto un tasso di umidità del 66%, tra l'altro palpabilissimo. Anche a Lazzolina non sfugge niente come te. Bilancia. Potresti essere paragonato a quelli che quando si andava fuori a cena facevano la corsa per sistemare il proprio cappotto sulla sedia di centro, collocazione tra l'altro strategica sullo scacchiere geopolitico che ti permette una buona veduta dall'estremità nord e sud e al contempo permette delle manovre più rapide verso i contingenti confinanti. La tua comprovata strategia è quella dell'attrito, il cui fine è quello di logorare le forze del nemico senza compromettere le proprie. Chi se non Silvio Berlusconi? Scorpione. l'acqua cheta fa pantano e feta. In questa quarantena vi stiamo vedendo un po' low profile. Ci aspettavamo da voi un'avvelenata, eravamo convinti che avreste stroncato ogni finto buonismo. Dopo aver violato tutte le restrizioni nazionali, dopo aver calcolato pedissequamente ogni singolo metro da casa vostra alla libertà, a soli 3 giorni dalla pandemia ci avete abbandonato. Qualcuno sa perché, un comportamento alla Luciana Litizzetto. Sagittario, è vero, la pandemia ci rende tutti più vicini, ma vogliamo veramente continuare a fare 10 telefonate al minuto se il destinatario non risponde? Questa settimana ho dovuto inventare le più improbabili scuse con la mia collega del Sagittario. Magari sentirti un po' meno, ma non perché sei tu il Sagittario, ma perché forse solo tu hai tutto questo desiderio di comunicare e controllare in continuazione. Letizia Moratti fa parte del club. Capricorno, passerei volentieri al segno successivo. Lo sappiamo che non vuoi parlare e preferiresti mandare un comunicato ogni 3 settimane. Io ti vedo lì improduttivo, inoperoso, sull'orlo di una crisi di nervi, pronto ad entrare a gamba tesa nella fase 2 e nella 3, in maniera rigorosa e responsabile, purché ti si riconosca un ruolo da leader. Ti meriti un bel Matteo Renzi e ti ho trattato perché potevo dire la Meloni. Acquario. È vero, hai difficoltà ad esprimere i tuoi veri sentimenti, soprattutto se non sono ispirati a Chomsky. Però vogliamo finire di comportarci come se questa pandemia fosse l'apostrofo rosa tra le parole assemblea, toujours? Mentre tieni in ostaggio qualcuno H24, pur di essere costantemente e mentalmente attivo. Il tuo piccolo mondo antico si è schiantato, beccati un Clemente Mastella. Pesci. Di te una cosa non si è detta abbastanza, di quanto sai essere melliflo e languido, soprattutto ai tempi del distanziamento sociale, grazie al quale puoi dedicarti instancabilmente a corteggiamenti inconcludenti. Sappiamo tutti infatti che nessuno incontrerà mai veramente i vostri favori e che siete un continuo pendolo che oscilla tra nessuno mi comprende e continuate a seguirmi per non capirci un cazzo. Dai però, non fare la fine di Matteo Salvini. Ciao stelline, ci sentiamo al prossimo dissing. Se vuoi regriare